21.01, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Anche per questo mercoledì 20 luglio del 2016 inizia prove tecniche di trasmissione. Consueto spazio del mercoledì sera riguardante industrial, dark space ambient, noise, power electronics, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, la sperimentazione in genere. Spazio che andrà avanti sino alle 22.30, allorché ci sarà poi 25 o'clock. Is 06 49 1750, il contatto telefonico. Il sito internet è www.ondarossa.info, anche per ascoltarci attraverso lo streaming. Per le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info, e sul sito, oltre che sulla pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione /disorder, domani verranno pubblicati sia il podcast sia la playlist. Intanto si va a salutare Raffaele da Napoli, Raffaele Pezzella da Napoli, Gabriel Edvi da Londra, Fabio FK Drone da Bologna, Claudio Frassine, se all'ascolto, anche lui da Brescia, Alessandro qui da Roma. Vedremo di risolvere anche, speriamo non ci siano problemi nel mettere gli artisti che vado a proporre qui, perché c'è un piccolo problemino qui a Facebook, ma comunque proveremo subito. Già che iniziamo con il primissimo lavoro di Fearnless, che abbiamo analizzato alquanto in queste settimane. Trattasi di Ascending Triads e Luminous Arcs, e oggi per l'ultima volta emettiamo una versione alternativa di un brano già ascoltato qualche settimana fa, ossia Lunar Sphere. The Lunar Sphere in a Waking Dream. Reflected in eerie glow. Un saluto di nuovo a Raffaele Pezzella, che arricchisce questa trasmissione con i suoi interventi scritti riguardanti gli artisti che manderò questa sera, per esempio questi Fearnless, progetto tedesco spesso associato agli Inadi, anche perché uno dei componenti è negli Inadi stessi. Salutiamo Antonio da Firenze, tenente Dan qui da Roma. Si chiamava Ascending Triads and Luminous Arcs, questo primo lavoro, ristampato anche nel 2014 in questa versione, diciamo, più breve, con 14 tracce anziché il doppio CD del 2005. Il tutto sempre attraverso la Loki Foundation di Lipsia. Quindi atmosfere, costruzioni armoniche abbastanza rarefatte, anche se qua e là trapela qualche elemento anche percussivo, come in questa Lunasphere, in questa versione alternativa. Parlare di Raffaele Pezzella vuol dire anche spesso parlare delle sue compilation, che ormai hanno riguardato tutto il panorama mondiale a questo punto, o gran parte, e ce ne saranno altre molto interessanti. Questa sera c'è invece Italian Experimental, Experimental Underground System Survey. E dal titolo si evince che è un compendio che va un po' a visitare la scena italiana più sotterranea. Oggi è il caso di Sisto Palombella, un ottimo suonatore di armonica, di fisarmonica per l'esattezza, che presta il suo strumento alla composizione sperimentale, all'elettronica, come si può anche apprezzare in questa Nature Verse. Thank you. Semplicemente geniale l'approccio artistico di Sisto Palombella, il suo modo così particolare di usare la fisarmonica, uno strumento dal fascino arcano, strumento contaminato con l'elettronica. In questa Nature Birds ricordiamo Sisto Palombella, un profilo artistico piuttosto importante. Vorrei menzionare le sue collaborazioni con il jazz, per esempio con Enrico Rava, Franco D'Andrea, Steve Lacy, ma anche le esperienze di musica etnica con Inura, con a metà tra musiche araba e flamenco, gli ex Daravish, approfondendo la cultura palestinese, e poi anche approcci alla musica balcanica. E quindi l'arguzia di Raffaele Pezzella nel intercettare il Sisto Palombella e metterlo in questo Italian Experimental Underground System Survey, questa compilation di materiale italiano. Un saluto dunque a Sisto Palombella, che abbiamo avuto anche il piacere di avere come ascoltatore in passato qui proprio a Prove Tecniche di Trasmissione. Un saluto a lui e tutto alla Nesplay Sounds Group, che ispira poi d'altronde tutta l'opera di Raffaele Pezzella. E adesso parliamo di altri due amici che spesso ci fanno compagnia. Trattasi di Fabio FK Drone e Gabriel Edvi, da Bologna e da Londra, che oltre a essere nostri affezionati ascoltatori sono anche dei musicisti di una certa abilità. Insieme hanno ideato a distanza questo lavoro sotto lo pseudonimo Sequential, che poi era quello originario dello stesso Fabio dopo la sua dipartita dai Matter. Insieme hanno composto questo Psychic Discoveries Over the Cosmic Plane, un lavoro molto interessante, che prende spunto dal Space Ambient, ma è, ma ha un profilo leggermente più a sprigno rispetto alle normali cadenze di Sequential. Ci ascoltiamo il brano che lo va ad aprire, dal nome Barnard. Vero andamento mantrico, questa Barnard estratta da questo lavoro di Sequential. Questo lavoro, che porta il titolo Psychic Discoveries Over the Cosmic Plane, concepito a quattro mani, a due cervelli e tanta sensibilità, quella di Fabio F.K. Dron e Gabriel Edley da Londra. Quindi una collaborazione italo-inglese questa sera, questo Sequential. Un album che ascolteremo anche la prossima settimana, che ripeto sarà l'ultima per quanto riguarda questa stagione, e il tutto riprenderà nei primi giorni di settembre. Bene, dunque, risalutiamo Fabio e Gabriel e noi si va avanti. Lasciamo la musica italiana, ce ne andiamo in Francia con Dieforme di Philippe Fichot e gli Ampi, ripresi da questo Dieforme numero 1 attraverso la Band Total, la loro etichetta. Un vecchio lavoro del 78 che andava a riprendere uno già uscito nel 77, arricchendolo con ulteriori tracce, e questa sera ci ascoltiamo Divertissement e Ludwigs. Yeah. e basciamare questo Dieform numero 1, un vero e proprio concentrato di creatività. E non è un caso, per l'appunto, che Philippe Fichot è arrivato sino ai giorni nostri a produrre degli album quasi sempre dignitosi. Qui c'è una curiosa copertina, un disegno di un cerotto, semplicemente un cerotto, in questo Dieform numero 1. Tornando per un secondo a Sequential, diversi complimenti a Fabio e Gabriel da parte di Alessandra qui di Roma e la stessa Carrie Favretto da Zurigo. :23, Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, insieme qui con prove tecniche di trasmissione che si trasferisce in Svezia. Peter Anderson qui con Stratum Terror, il suo lato diciamo più sperimentale e più radicale, abbastanza lontano dal dark ambient di Rise on Death. Questo album si chiama Pariah Demise, che uscì nel 95 attraverso l'Old Europa Café e poi è stato ristampato molti anni dopo. Questa che sta a partire si chiama Skull Breathing. I don't know my father, my biological father, and I was raised, I was just raised wrong. Were you taught much between right and wrong? No, I wasn't taught anything. My parents didn't take care of me. They were always up. It was like my way to get attention from them was to get in trouble. Were they substance abusers? Yeah, they were substance abusers. Or drugs or alcohol? Drugs. So you began selling drugs at what age? 13. Did you make a lot of money doing that? In your best week, how much money? $900. And to whom would you sell it? Dope fiends. Crack heads. Michael, when you carried a gun, how did you feel? Like I had a sense of power over other people without guns. I was somewhat superior. I had a sense of era superiority. la poliedrica personalità di Peter Anderson, che parte per esempio dai Rise on Death, dal Dark Ambient di Rise on Death, fino ad arrivare a queste note accidentate di Stratum Terror. In mezzo c'è Necrophorus, Svastia Yanam dal profilo etnico, lo Space Ambient di Atom in Electrin. Dunque molto eclettico il buon Peter Anderson. Dalla Svezia al Giappone, ordunque, il Nippo Sound, il Nippo Noise, che dir si voglia. Qui rappresentato dai Setting Table. Questa era Life, un vecchio lavoro di molti, molti anni fa. Quattro lunghe tracce, ci andiamo ad ascoltare proprio l'ultima, dal nome No Future. Un saluto a Antonio, questa sera non può stare con noi perché ha affaccendato in vicende lavorative. Un grosso abbraccio ad Antonio lì a Firenze. Eccolo qua dunque, dai Setting Table.